sappiamo qual è, può esserne la causa. E bisogna andare a fare un controllo. Il cuore, quindi. Fantastico. Ma attenzione, la causa può essere o di specifici organi, quindi dipendente dal cuore, dipendente dai polmoni, dipendente dal fegato e così via, oppure dipendente dallo stato mentale, perché la mente influenza in maniera decisa la qualità della voce. Quindi un Alzheimer parla in maniera diversa durante la malattia piuttosto che prima della malattia. Parkinson è la stessa cosa. E quindi questo vuol dire fare un controllo quotidiano, costante. Davvero interessante, professore, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Allora, Veronica, è arrivato il momento del nostro funambolo Leonardo Manera. Io vorrei stamattina fare un momento consolatorio per tutti quelli che hanno problemi in questi giorni. Ah. E vorrei cominciare leggendo una notizia che forse qualcuno di voi ha già visto, che qualche giorno fa appunto c'era sul giornale di Vicenza. Io prima vi leggo la notizia. Allora, drammatica serata quella vissuta da un artigiano vicentino di 54 anni. Era rientrato a casa dopo il lavoro e aveva scoperto che i ladri, entrati da una finestra al primo piano, gli avevano svaligiato la villetta, portando via tutti i gioielli nascosti in una cassaforte e anche un armadio blindato con tutti i fucili. Disperato, aveva suonato a un vicino per capire se avesse visto qualcosa e aveva scoperto sua moglie a letto proprio con il vicino. Che uno dice: ti svaligiano la casa, ma statene tranquillo così, ma già la serata è andata male. Ma voglio dire, l'arrivo della polizia per il sopralluogo di furto ha impedito che la lite degenerasse. Poi i suoi fucili sono stati e i suoi fucili sono stati ritrovati dai carabinieri nelle campagne di Grumolo delle Abbadesse vicino Vicenza. Al momento però la prefettura non ha ancora disposto che vengano restituiti all'artigiano. Quindi in pratica, cari miei, casa svaligiata e moglie a letto con il vicino. Dispiace per l'artigiano, ma questa vicenda è utile per tutti, perché dimostra che per quanta sfiga possa capitare a ognuno di noi, c'è sempre qualcuno che ne ha di più. Allora, immaginate questo povero artigiano, torna a casa tranquillo o pensieroso dopo una giornata di lavoro, magari neanche andata troppo bene visto il periodo, però sa lui che a casa c'è la moglie che lo aspetta, che magari gli ha anche preparato una buona cenetta, un bel piatto di baccalà alla vicentina, per dire, e che dopo cena magari si potrebbe anche prospettare una dolce e piccante serata sotto le coperte. E invece arriva a casa, trova la porta aperta, entra, batticuore, è tutto sotto sopra, cassaforte vuota, non ci sono più i gioielli che probabilmente aveva regalato sua moglie, ed è disperato e dispiaciuto soprattutto per la moglie. Non sa come dire alla moglie che i suoi gioielli non ci sono più, e poi i ladri hanno portato via anche i fucili. Si aggira per casa con lo sconforto e il dolore che si prova quando si vede la propria casa violata. Io lo so bene, perché anche a me i ladri sono entrati in casa. È il tipo di furto che peggiore che possa capitare. Però lui almeno ha la moglie che gli vuole bene, che lo può confortare, e ha dei vicini di casa ai quali si può rivolgere per avere un aiuto, e va proprio da uno di quei vicini, e lì crolla tutto. Il vicino di casa in pigiama, la moglie che si copre rapidamente, che magari dice: non è come stai pensando, c'è tutto un equivoco. Grande amarezza, delusione, incredulità e anche un po' di incazzatura legittima, doverosa direi. Poi la lite che non degenera, perché per fortuna i ladri gli hanno portato via i fucili. Anzi, secondo me i ladri gli hanno portato via i fucili proprio perché hanno visto la moglie che stava andando al vicino, in qualche modo lo hanno voluto proteggere, evitare il peggio. Però in una sola sera sfortunatissima l'artigiano ha perso tutto: i gioielli, vicino di casa, l'illusione dell'amore della moglie. Grande, grandissima serie di sfortunate coincidenze. D'ora in avanti, se vi capita di bucare una gomma in tangenziale proprio il giorno appuntamento della vita, se la televisione si rompe proprio la sera della finale dei mondiali, se mentre state per aprire le chiavi, la macchina, le chiavi vi cadono nel tombino, prima di prendervela pensate all'artigiano di Vicenza, che da oggi è il mio eroe catartico della sfiga. Effettivamente, l'artigiano di Vicenza! Pensate a lui, pensate a lui! Tu ci fai i pezzi comici e pensate a lui, e tu ci ridi! Leonardo, ci ridi. Più che altro potremmo invitarlo in studio come funambolo, eh? Sì, sì, e secondo me non accetteramo. Anche secondo me, però magari gli diamo un po' di joie de vivre. Sono le 9. La cosa buona in tutto questo è che, siccome probabilmente in caso di separazione la separazione verrà addebitata alla moglie, lui almeno non dovrà pagare gli alimenti. Questa è l'unica cosa buona. Ci sono sempre dei lati come positivi. Si dice sempre: nella sfiga ti è andata bene. Questa è sempre. È finita la prima ora di Funamboli. Torniamo subito dopo il giornale radio. State con noi. I funamboli. Benvenuti alla seconda ora dei funamboli. Oggi siamo nella versione meglio di, e vogliamo riproporvi alcune delle più belle interviste di questi mesi. Come al solito a quest'ora